io ritengo che la prostituzione non sia e non debba essere un lavoro. Questa è la prima affermazione. E cosa deve essere, secondo lei? Ne deriva che non essendo un lavoro, lo Stato perché deve fare pagare le tasse? Se fa pagare le tasse, riconosce alla vendita del corpo umano, che è dal punto di vista sia etico sia economico il peggio che ci possa essere, proprio il peggio, la peggior cosa. È chiaro che quindi non può derivare il pagamento delle tasse, perché quello altrimenti verrebbe riconosciuto come un lavoro. Sì. Soprattutto lo Stato lo presenterebbe come un modello. Non è né nero né evasione fiscale, è la degenerazione del corpo umano. Sì, ho capito, allora, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, lo Stato come la deve considerare quella dazione di denaro? Le porto quest'altro esempio per farmi capire ancora meglio. È come se noi dicessimo: benissimo, abbiamo bisogno di soldi come Stato, tassiamo la roulette russa che porta al suicidio. È la stessa cosa. Io vendo il mio corpo, vendo la mia sessualità, una persona che sia donna, che sia uomo, che sia transessuale, vende il proprio corpo, una persona va a giocare, questo può portare alla sua morte. È lo stesso identico esempio. Se noi tolleriamo la prostituzione come lavoro, anzi la riconosciamo come lavoro, allora nella stessa identica misura, siccome in alcuni stati l'asportazione di organi umani e la vendita di organi umani è ancora fatta, è fatta magari illegalmente, ma è fatta, allora noi lo dobbiamo tollerare, perché ci sono molte persone che aspettano di essere trapiantate. Questo paragone però è un po' forte.